Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Puntata speciale quella di oggi di Focus Economia. Un buonasera da Sebastiano Barisoni. Come già annunciato, oggi a borsa chiusa, e come sempre fa questo programma quando i mercati sono chiusi, ci occupiamo di temi che spesso non riusciamo ad approfondire, ma non per questo si tratta di temi non validi e non di rilievo. Oggi, in coincidenza anche con la vigilia poi del Natale, ma non per un'operazione così superficialmente buonista, vogliamo occuparci di Africa. L'Africa è stata al centro, come era immaginabile, del vertice FAO di Roma, quello che si è tenuto, lo ricorderete, a inizio novembre, tra il 10, 11 e 12 novembre, con il rischio appunto di e le denunce dei bambini, delle migliaia di bambini che muoiono di fame, del rischio che senza gli interventi questa cifra sia destinata ad aumentare, e anche le cifre fornite, lo ricorderete, da Jacques Diouf, direttore generale della FAO, erano cifre obiettivamente modeste, molto molto meno di quanto è servito a salvare alcune banche d'affari americane, 44 miliardi di dollari all'anno per sconfiggere la fame nel mondo, non solo in Africa. È chiaro che in questo panorama l'Africa purtroppo sul fronte fame nel mondo la fa da leone, ma noi oggi ne parliamo con una chiave un po' diversa, perché riteniamo che poi gli aiuti della FAO e dell'UNICEF siano importantissimi, ma che poi la vera soluzione per l'Africa, un po' come è avvenuto per altri paesi prima da terzo mondo, penso al sud-est asiatico, sia la crescita economica chiaramente sostenibile e ben distribuita, non a vantaggio solo di alcune elite. Il tema è quanto mai attuale, perché avrete letto in questi giorni che da un lato i grandi fondi di investimento, i fondi sovrani, quelli che sono espressione degli stati, penso agli stati medio orientali, ma non solo, anche quelli asiatici, stanno comprando terra in Africa per due motivi sostanzialmente. Tre, mettiamola così: da un lato le risorse minerarie presenti nel paese, dall'altro il fatto che si va a produrre beni alimentari di derivazione agricola in Africa, e il terzo aspetto è rappresentato dalla produzione agricola ma per uso combustibile, ossia le biomasse cosiddette, che rappresentano anche l'orizzonte futuro per quello che riguarda l'utilizzo di fonti alternative di combustibili. Per tutti questi motivi l'Africa non è più semplicemente una terra da materie prime tout court, ma sta diventando il posto dove investire. E c'è un paese, e non è un paese piccolo, si chiama Cina, che questa cosa l'ha capita da anni e sta veramente facendo uno shopping incredibile in Africa, sbaragliando i concorrenti, con un atteggiamento che poi andremo a chiarire non da ex paese colonizzatore, ma molto più apparentemente alla pari, fornendo in cambio infrastrutture, fornendo in cambio altre cose, e si sta comprando pezzi interi di Africa. La cosa che però mi preme dire subito è che già ho commesso un insieme di inesattezze iniziando questo programma, perché continuo a parlare di Africa, e questo è il primo errore che vorremmo sfatare: non esiste l'Africa, o meglio esiste il continente africano, esistono le Afriche, perché adesso chiedo agli ascoltatori quanti sono i paesi africani, e dopo la scheda che giustificherà il perché del termine Afriche darò anche la risposta. Economia in forte crescita, boom di telefonini e anche un satellite nello spazio. Non è la Cina, l'India o il Brasile, ma il continente a cui solitamente si guarda come a un blocco unico, colorato di luoghi comuni e stereotipi, ignorandone i progressi che emergono seppur accanto a tragedie e le differenze tra i 53 paesi che compongono il continente. Cresciuta nel complesso con un ritmo superiore al 5% nell'ultimo quinquennio e appena sotto il 6% nel 2008, l'Africa è l'area del mondo con la più alta crescita di abbonati e cellulari posseduti oggi dal 40% della popolazione. E in attesa è anche la corsa di un paese africano allo spazio. È sudafricano il primo satellite lanciato in orbita a settembre con un investimento di 3,5 miliardi di dollari. Un continente che sembra dunque svegliarsi anche se con profonde differenze tra paese e paese. Lo dimostra per esempio il Botswana, primo produttore mondiale di diamanti, la cui economia ha tassi di crescita medi del 5%. Oltre al doppio, è stato invece il progresso del PIL nel 2008 del Ruanda, teatro di uno dei più sanguinosi genocidi del XX secolo. Territorio ancora minato, ma di affari d'oro, è il Mozambico. Risvegliatosi da anni di guerra civile, l'economia cresce oltre il 7% annuo. L'ex colonia portoghese conta oltre 2.000 chilometri di spiagge, la più grande riserva inesplorata di carbone al mondo, tanta energia e tanta legna su cui la Cina ha messo gli occhi. Dal 1995 al 2007 la foresta mozambicana ha già perso un decimo degli alberi. E da tigre asiatica è stata la crescita dell'Angola, più 15% del PIL nel 2008. Proprio alla Cina, l'ex colonia portoghese nel 2006 ha fornito più petrolio dell'Arabia Saudita. Grazie alle entrate petrolifere, poi, in Nigeria si è formata una classe di nuovi ricchi, tanto che a Londra, per i negozi di lusso, i nigeriani sono la quinta clientela più importante, dopo cinesi, russi, americani e arabi del Golfo Persico. E chi l'avrebbe mai detto? I nigeriani i migliori clienti del lusso londinese, ma soprattutto tassi di crescita in un anno sicuramente non facile come il 2008, del 7%, dell'8%, del 15%, in media del 5%. Allora, per ragionare di Africa, senza pregiudizi, ma fermo restando che è un tema che comunque abbiamo voluto collegare alla festività natalizia, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il dottor Simone Santi, che oltre che essere un imprenditore con numerosi uffici di assistenza agli imprenditori italiani nel continente africano, è anche delegato per i giovani di Confindustria, per la piccola e media di Confindustria in Asso Africa, proprio nei rapporti tra l'Associazione degli Industriali e il mondo africano. Buonasera, dottor Santi. Buonasera. Grazie anche a Stefano Gardelli, che è l'autore del libro L'Africa cinese, gli interessi asiatici nel continente nero, la casa editrice dell'Università Bocconi. Buonasera anche a lei, Gardelli. Buonasera. Allora, Simone Santi, vediamo di chiarire alcuni punti già toccati dalla nostra scheda. Non esiste l'Africa, esistono le Afriche, esistono 53 paesi, così do la risposta anche, molti di voi hanno dato la risposta che danno tutti, 20, 25, 30, sono 53 i paesi in Africa, e spesso questo è un test per far capire quanto pensiamo unico un continente che unico non è. A che cosa si può imputare questa crescita che oggettivamente ha sorpreso più di un economista? Allora, prima cosa, mi fa molto piacere che si parli di Africa e che si dica finalmente questo numero dei paesi, che tra l'altro balla tra 53 e 54, perché c'è la diatriba tra Western Sahara, che è confinante con il Marocco, che alcune istituzioni riconoscono ed altre non lo riconoscono. Quindi diciamo che parliamo di 53 o 54 paesi, quando nell'immaginario collettivo, confermo, mediamente sono 20. La crescita è legata... Forse è la conoscenza della crescita che sorprende di più, perché in realtà il continente africano per molti paesi è in crescita da quando i paesi hanno raggiunto una stabilità da molti anni. Oggi, quando ho sentito parlare di Botswana, in realtà il Botswana, che è uno dei paesi che è stato più stabile in Africa, ha sempre avuto dei ritmi sostenuti di crescita, intanto sostenuti da materie prime e da turismo, che sono quindi delle risorse che hanno sempre alimentato l'economia locale. I paesi invece che dobbiamo sempre, anche sempre troppo generalizzando, molti paesi africani non dimentichiamo che erano ex colonie, da quando si sono liberate dai coloni hanno avuto dei tassi di crescita comunque elevati, poi purtroppo molti dei paesi sono rientrati in guerre civili, però oggi, raggiunta la stabilità per la maggior parte dei paesi africani, quei paesi crescono perché hanno materie prime, risorse e soprattutto hanno cervelli. Forse questo è l'unico dato positivo delle guerre. Le guerre hanno fatto sì che molti africani hanno studiato, ovviamente i benestanti hanno studiato all'estero, sono oggi ritornati e c'è questo controesodo dei cervelli dalle economie e dai paesi che hanno un'economia più matura sui propri paesi di riferimento. E questo è un dato positivo, per cui oggi nella maggior parte dei paesi africani noi troviamo dei quadri che sono estremamente preparati, estremamente internazionali e spesso estremamente giovani. Questo è un fatto importante. Chiaramente poi possiamo fare dei distinguo tra paese e paese. Ecco, quali sono i paesi più interessanti? Poi arriveremo anche al rapporto con la Cina, ma quali sono i paesi che hanno i tassi di crescita più interessanti, ma soprattutto anche la stabilità economica e politica tale da permettere l'investimento? Allora, noi parlo da imprenditore, la mia società, la Leonardo Business Consulting, è da oramai da più di 12 anni presente in Africa. Noi abbiamo scelto dei paesi e prevalentemente cerchiamo di scegliere i paesi che danno affidabilità agli investimenti. Allora, primo di tutti sicuramente il Sudafrica, Mozambico ed Angola, che sono tutti i paesi dove abbiamo ovviamente delle sedi, e poi l'Etiopia, anche se ha un governo molto chiuso, un'economia molto chiusa, però con anche grandi potenzialità per imprenditori, italiani che sono dentro, il Ghana, e poi c'è tutta la fascia, diciamo, che affaccia sul Mediterraneo, che è una fascia che sta crescendo con dei ritmi più lenti, però con paesi più stabili. Qui parliamo di Tunisia, Egitto e Marocco, che per le imprese italiane sono paesi oramai economie consolidate, quasi europee. L'ultimo, ma non l'ultimo, è la Libia, che con le incertezze, se vogliamo, di processi decisionali in mani molto ristrette, in realtà è un grandissimo mercato. Dobbiamo ricordare che i paesi africani sono oggi molto più importanti per gli investimenti piuttosto che come mercati di riferimento della vendita, perché certo, pochi sanno che quasi tutti i paesi in realtà hanno una popolazione molto bassa rispetto alla dimensione del paese stesso, e quindi gli africani sono paradossalmente pochi. Purtroppo nell'immaginario collettivo si immagina sempre a tanti, perché vediamo sempre tanti bambini, vediamo sempre tanti africani, ma poi in realtà sono molto pochi rispetto alla dimensione e allo spazio. Allora, questo è il tema, diciamo, sui vari paesi, però Simone Santi, noi sappiamo da sempre che l'Africa ha una grande ricchezza che è stata nel periodo coloniale e anche postcoloniale la sua grande rovina, e cioè la materia prima, che si chiamasse caucciù ai tempi del Congo belga, o si chiami adesso bauxite dalla Guinea, ferro dalla Liberia, diamanti, ahimè, da tutte le zone che li producono, nel cobalto e rame dalla Zambia e dal Congo, petrolio dalla Nigeria, Angola e Congo. Posso andare avanti con tutta la anche il Sudan è ricco di greggio. Queste materie prime da sempre fanno appetito e da sempre il mondo occidentale si è mosso su questo fronte. In realtà in questo momento mi sembra di vedere che più che di materie prime il mondo abbia fame di terra vera e propria. Allora vorrei capire se sono investimenti di carattere alimentare o anche energetico, appunto lì il legame con le biomasse. Purtroppo bisogna dire che gli investimenti in agricoltura sono ancora una piccola porzione di quelle che sono le richieste di terra rispetto alle biomasse, però c'è un dato: ci sono dei paesi che hanno oggi sviluppato una normativa molto avanzata e che tra l'altro stanno facendo scuola all'interno dei paesi africani, uno su tutti in Mozambico, che ha fatto una mappatura del proprio territorio e del proprio territorio arabile, coltivabile, e ne ha, diciamo, definito una parte che è una parte meno fertile oppure dei terreni marginali, che ha lasciato per autorizzare per fare degli investimenti nelle biomasse. Ora, questo permette un controllo appunto del proprio territorio. È chiaro che è un paese che ha la possibilità di farlo, in quanto la proprietà della terra rimane nelle mani del governo e si dà una licenza di utilizzo della terra. Però devo dire che molti paesi africani in questo, nella selezione degli investimenti e nella definizione dei progetti che devono andare avanti, stanno diventando molto selettivi. Purtroppo nel passato è vero che tante terre sono state assegnate senza un rigoroso controllo dei progetti, e vediamo per esempio quello che è successo a Madagascar, dove alla fine la popolazione stessa ha dovuto dare una risposta a questa assegnazione di terre un po' indiscriminata. Quindi nei paesi che stanno tutelando invece il proprio terreno, sta succedendo che la biomassa diventa oggi l'opportunità soprattutto per fare un trasferimento di conoscenza nel settore agricolo. Se noi parliamo ad esempio di una pianta come la giatrofa, che in questo momento ha grande richiesta, ebbene, una pianta come la giatrofa è una pianta che comunque occupa diverse popolazioni, ha un rapporto su occupazione a popolazione, essendo quasi tutto manuale rispetto agli ettari disponibili, molto alti, e soprattutto permette a molte aree dell'Africa che sono incolte di poter sviluppare anche una conoscenza della produzione agricola. Perché non dobbiamo dimenticare che proprio per l'estensione dei paesi e per il fatto che la popolazione non è così abbondante, molte aree sono ricchissime anche di fiumi, di acque, di verde, ma sono assolutamente incolte al di là della cultura del giardinetto vicino alla propria abitazione. Allora, quindi materie prime, questo già lo sapevamo, ma adesso anche e soprattutto bisogno di terra. Tale è il bisogno di terra, e qui entriamo in un tema a cavallo appunto tra gli allarmi lanciati dalla FAO e le possibilità di sviluppo per l'Africa, che c'è un'espressione in inglese, si chiama land grabbing, vuol dire sostanzialmente l'acquisto di blocchi enormi di terra, di terreno da parte di stati, fondi sovrani, fondi comuni di investimento, fondi anche di carattere più diciamo, multinazionale, che vanno a comprare blocchi interi di Africa. Pensate che il fenomeno del land grabbing ha visto la Corea del Sud comprare fino ad ora 2 milioni e 300 mila ettari di territorio africano, la Cina ne ha comprati 2 milioni e 100 mila, l'Arabia Saudita oltre 1 milione e 600 mila. Praticamente negli ultimi tre anni sono stati comprati solo negli ultimi tre anni 20 milioni di ettari per un valore di 100 miliardi di dollari, che significa appunto aver pagato più o meno 5 miliardi ogni milione di ettari. Allora, da questo punto di vista, 50 miliardi ogni milione di ettari, da questo punto di vista la cosa più interessante del fenomeno è quanto vale. Allora, se l'import cinese di materie prime nel 2008 è stato pari a 56 miliardi di dollari sul 2007, un più 54% sul 2007, già delle cifre che abbiamo detto, capite che il vero player, il vero soggetto che sta giocando la partita più grossa in Africa è proprio la Cina. L'interscambio, quindi l'import-export tra Cina e il continente africano è stato pari a 107 miliardi di dollari l'anno scorso, ma la cosa più interessante è che è aumentato del 45% ed è praticamente decuplicato rispetto al 2000. Ci sono stati quasi 8 miliardi di dollari di investimenti cinesi diretti in Africa solo nel 2008, e voglio dire, un miliardo di dollari in Africa ha un peso un po' diverso rispetto agli Stati Uniti o all'America. 10 miliardi i prestiti agevolati che la Cina ha concesso all'Africa nei prossimi tre anni, è il doppio di quanto garantito nel 2000. È un rapporto storico che va avanti dai tempi di Mao Zedong, che però proprio negli ultimi 7-8 anni, in coincidenza con l'esplosione del boom economico cinese, sta trasformando l'Africa non nella colonia della Cina, ma diciamo nel giardino, nel campo, nel luogo in cui la Cina riesce a ottenere materie prime e anche materie agricole. Di questo si è occupato appunto Stefano Gardelli nel suo libro L'Africa cinese. Sentiamo questo passaggio. La Cina riceve dall'Africa più del 30% del suo intero volume di importazione di greggio e accanto a esso grandi quantità di rame, uranio, coltan, oro, argento, platino e legname. L'idea che l'acquisizione di riserve strategiche di petrolio all'estero aumenti la sicurezza energetica del paese è diventata una vera e propria priorità politica per Pechino. Entro il 2020 si stima che il 60% del petrolio e il 30% del gas utilizzato in Cina sarà di importazione. Allo stesso tempo, la politica energetica di Pechino si è rivelata sempre più inefficace e insostenibile per mantenere il passo con i suoi straordinari tassi di crescita, sia per ciò che riguarda la quantità di energia prodotta che per la forma di energia richiesta. Per la leadership cinese, che dalla scuola maoista ha ereditato l'ideologia dell'autosufficienza, la sfida di doversi assicurare delle riserve sicure e stabili di energia è diventato un fattore essenziale nei suoi calcoli di politica estera per la sicurezza del paese. Nonostante la vulnerabilità per ragioni tattiche delle importazioni cinesi dall'Africa, esposte a un eventuale blocco navale da parte della marina di un paese come gli Stati Uniti, uno dei pilastri su cui costruire la sua sicurezza energetica è stato individuato dal governo di Pechino proprio nel continente nero. I primi tentativi cinesi per testare la reazione della comunità internazionale e per valutare la fattibilità del progetto di aumentare la propria sicurezza energetica, iniziarono a metà degli anni 90 con due progetti di carattere sperimentale, uno in Kazakistan e uno proprio in Africa, ovvero nel Sudan. Se l'Africa diventerà sempre più essenziale per soddisfare il fabbisogno energetico cinese, la sua ricchezza di materie prime è già diventata un elemento insostituibile nella catena produttiva che ha reso la Cina la seconda potenza mondiale. Le risorse energetiche africane sono relativamente poco sfruttate e la Cina ha individuato dei territori e degli stati dove la concorrenza occidentale è più debole, soprattutto per motivi di carattere politico, come in Sudan e nello Zimbabwe. Pechino, in Africa, è costantemente alla ricerca di nuovi partner commerciali. Oggi ha stabilito numerosissime joint venture e messo a disposizione enormi quantità di capitali, diversificando molto sia il genere di investimenti che i settori economici. Impressionante quindi il tipo di investimenti cinesi in Africa. Stefano Gardelli, la cosa che forse sfugge ai più è che la Cina ha un bisogno enorme, con 1,2 miliardi di popolazione, di risorse, di materie prime, ma è il tipo di approccio cinese nell'Africa, cioè che, dispiace dirlo, ma per alcuni versi o per alcuni paesi africani viene visto sicuramente come un approccio migliore rispetto all'approccio occidentale, soprattutto quando si tratta di ex paesi coloniali in Africa. Focus Economia. Di nuovo con Sebastiano Barisoni per questa puntata speciale di Focus Economia, appunto a mercati chiusi. Ci occupiamo degli investimenti futuri nel continente africano, del ruolo, lì eravamo arrivati, che ha la Cina come partner commerciale in Africa, dei milioni di ettari. Ho visto molti messaggi al 349-238-6666 che sono rimasti impressionati dal numero: 20 milioni di ettari comprati in Africa negli ultimi 3 anni, con un valore appunto di 100 miliardi di dollari. Allora, Stefano Gardelli, è vero che il vantaggio cinese, oltre che insomma avere tanto bisogno, è il modo in cui si pone con i paesi africani? Gli inglesi lo chiamano peer-to-peer, quasi un rapporto alla pari, non da ex paese coloniale come avviene in Europa o da impero come fa ogni tanto l'America? Sì, perché poi erano stati abilissimi soprattutto a costruire tutta una retorica intorno a questo approccio, nel senso che non è soltanto quello che poi loro hanno dimostrato nei fatti, loro hanno costruito tutta una retorica che Hu Jintao e Njabao nei loro viaggi in Africa continuano a ripetere, la retorica della win-win cooperation, una retorica per la quale la Cina trae lo stesso vantaggio che traggono i paesi africani dalla loro relazione, che è una relazione che si basa poi su delle caratteristiche uniche che nessuno ha mai attuato in uno scenario come quello soprattutto africano. La regola aurea cinese è quella di non interferire, per cui non interferire all'interno della politica interna dei paesi africani, un approccio senza vincoli politici, al contrario invece degli aiuti occidentali, secondo i quali un finanziamento, un tot numero di soldi sono concessi in cambio di un monitoraggio costante o delle riforme politiche o un cambiamento di atteggiamento, poi semplicemente, che tante volte sono solo delle dichiarazioni da parte dei leader africani. Quindi questa regola della non interferenza però è una cosa che hanno criticato moltissimo gli europei, gli Stati Uniti, però effettivamente è una linea generale che ha la Cina nei suoi rapporti con i paesi esteri, quindi non soltanto in Africa. Quindi oltre a una costruzione di un'identità storica comune basata su siamo stati entrambi vittime del colonialismo, noi dei giapponesi, voi degli occidentali, e quindi condividiamo una storia di soprusi e sappiamo benissimo quello che l'Africa ha dovuto subire a causa degli occidentali, e questo l'abbiamo vissuto anche noi sulla nostra pelle per primi, c'è anche una regola per la quale appunto non mi interesso degli affari interni di uno Stato, solo raramente possono essere legittimo interesse della comunità internazionale, come nel caso del Sudan, come nel caso dello Zimbabwe, insomma, sono molti i casi in cui... Ecco, al di là però del fatto che, abbiamo capito, la Cina non solo si ponga come una vittima anche lei del colonialismo, e poi in maniera più cinica, meno idealista se vogliamo, certo. Anche perché, se posso permettermi, la Cina è tutto tranne che una democrazia, per cui vorrei anche ben vedere la Cina dare lezioni di democrazia all'Africa, ma detto questo c'è un rapporto che in qualche modo gli avvantaggia. Vorrei capire se però al di là della retorica del porsi come noi siamo qui solo per fare affari e non siamo degli ex colonialisti, se poi c'è un vantaggio vero anche per l'Africa, perché io ho ricevuto anche alcuni resoconti in cui obiettivamente, al di là della retorica, se tu vai e ottieni per esempio tutti i diritti di pesca del Kenya e in cambio gli fai tre ponti e una diga, beh, un po' di sfruttamento c'è. C'è da dire che, come in ogni cosa, i suoi pro e i suoi contro. Insomma, gli aiuti di Stato concessi ai governi africani, che sono aiuti concessi a tassi irrisori e che poi nella maggior parte dei casi al meeting dopo o dopo due anni vengono cancellati, sicuramente aumentano la possibilità per i governi africani stessi di attuare delle politiche di sviluppo. Le infrastrutture che i cinesi costruiscono in cambio della concessione mineraria, in cambio insomma, di tutto quello che la Cina vuole e cerca in Africa, sono infrastrutture che rimangono e che rimangono per un eventuale futuro sviluppo del territorio, sviluppo di un ambiente economico locale. È chiaro che però anche questo ha i suoi lati negativi, nel senso che la Cina dopodiché dice: perfetto, io ho un Occidente che da una parte mi compra sempre meno merce a basso costo perché sono in crisi, quindi cerco nuovi mercati da aprire. E chiaramente l'Africa è un mercato che potenzialmente ha un valore enorme, perché è un mercato molto giovane e quindi chi prima arriva meglio sta. Dopodiché è un mercato fatto da giovani, cioè la popolazione africana è giovanissima, per cui ha una voglia di consumare, ha voglia di adeguarsi anche a quelli che sono i modelli occidentali. Per cui chiaramente questo ha anche un effetto negativo sul tessuto economico fragile africano, perché come è successo in Zambia con lo tsunami del tessile, un po' quello che è successo anche da noi in Lombardia, se vogliamo, le merci cinesi a basso costo chiaramente uccidono il fragile ambiente economico africano. Sì, però vorrei capire se in generale, poi passiamo anche a Simone Santi, se in generale sono abbastanza così corretti i cinesi quando strappano concessioni decennali per sfruttare giacimenti minerari oppure per ottenere ettari e ettari di terra, milioni. Purtroppo, allora, chiaramente la correttezza è una categoria. No, ma correttezza vuol dire, cioè, che in effetti c'è un beneficio anche per le popolazioni, perché noi su questo non abbiamo un bellissimo passato. Vorrei sapere se i cinesi noi occidentali sicuramente non possiamo dare lezioni. Quello che i cinesi stanno facendo è che spesso, e quello che spesso accade, è che non c'è un vero e proprio trasferimento poi di know-how, di conoscenze. I cinesi portano giù i loro operai stipati in aerei o in navi, e sono tante volte anche persone che in patria non hanno la libertà e si conquistano la libertà andando giù a lavorare. Per cui, e quindi effettivamente poi non c'è questo volano per il territorio, tante volte purtroppo è soltanto una raffare, un po' come quello facevamo noi. Beh, però ripeto, sì. E poi a costi molto bassi, perché la manodopera cinese, soprattutto se stiamo parlando anche di persone in qualche modo condannate, insomma, la manodopera cinese costa pochissimo. Il vantaggio però per la Cina è innegabile, da quello che capisco c'è un vantaggio anche infrastrutturale per l'Africa. Se a questo sommiamo però anche l'aumento dell'interesse dell'India, eccoci a Cindia di nuovo, l'aumento dell'interesse dell'India nei confronti dell'Africa, New Delhi ha investito in Africa 10 miliardi di dollari nel 2008 e l'interscambio tra India e Africa è passato da 6 miliardi e mezzo nel 2003 a 25 miliardi nel 2007, anche qui è quadruplicato. Ogni anno nelle università indiane ci sono 15.000 studenti africani che vanno a laurearsi, che studiano per laurearsi, e infine il 50% degli imprenditori indiani ha preso la cittadinanza del paese africano di insediamento, mentre i cinesi su questo restano come sempre meno integrati, hanno una minor capacità di restare, solo il 4% degli imprenditori cinesi prende il passaporto del paese dove opera. Simone Santi, visto l'interesse della Cina e quello anche dell'India, che come sempre lo affronta più sul fronte universitario e un po' più, diciamo, della formazione anche di classe dirigente, a noi che cosa resta come partita? E che carte possiamo giocarci? Dico due parole sull'India. In realtà era una presenza storica, nel senso che l'East Coast dell'Africa è sempre vero. Stato denso di scambi con l'India e di comunità indiane radicate da generazioni. La Cina è un fenomeno molto più recente. In entrambi i casi una grande differenza rispetto all'Unione Europea lo fa il credito. Oggi il credito cinese è molto aggressivo ed è un credito vincolato ad investimenti cinesi, ugualmente le banche indiane e i fondi che gli indiani danno ai governi, mentre l'Europa e le varie nazioni europee oramai hanno visto quasi scomparire qualsiasi forma di credito o di finanziamento finalizzato a delle opere di imprese dei paesi di provenienza, come era in parte anche la nostra cooperazione, come è stata l'Unione Europea fino a qualche anno fa. Quindi questa è una grande differenza e purtroppo è un grande plus per la Cina e per l'India a loro vantaggio. Per i nostri paesi, per l'Europa e in special modo per l'Italia, che cosa rimane? Rimane una presenza di grandi imprese italiane, parliamo del gruppo Eni presente nel settore petrolifero, presente in Angola, presente in Mozambico, presente in vari altri paesi, parliamo del settore delle costruzioni dove dalla CMC di Ravenna, che è presentissima, è una delle più grosse società europee nel Southern Africa e quindi nell'area SADC, a Salini, anche a piccoli e medi imprenditori come Barbisotti in Ghana, come Barnero in Etiopia, che sono imprese che hanno dei fatturati da nostre medie imprese familiari, e poi invece abbiamo ancora delle imprese che investono, se vogliamo, anche nel settore agricolo, come la Sfir, come Zuccherifici, il gruppo Maccaferri, Italcementi come grande in Egitto. Insomma, devo dire che la presenza italiana è isolata e spesso quasi in monopolio rispetto al paese, e viene da motivi storici. Diciamo siamo in ritardo negli ultimi anni, perché quasi tutte queste imprese che io ho citato sono imprese che hanno costruito una storia oramai 20-30ennale legata appunto alla cooperazione e che forse hanno portato poco indotto. Ora vediamo Angola, Mozambico e Sudafrica sono paesi che stanno portando un po' di indotto anche grazie ad imprese italiane che sono presenti, e quindi questo ci si sta un po' muovendo. Purtroppo manca il manifatturiero. Perché l'Africa è sempre purtroppo vista anche come comunicazione, fino a un paio d'anni fa è stata vista come un paese e non un continente pericoloso in cui investire, e invece abbiamo delle democrazie che sono stabili, abbiamo per esempio una democrazia stabile in Sudafrica, una democrazia stabile in Mozambico, siamo alla quinta elezione democratica consecutiva con un governo stabilissimo dal 92 ad oggi. D'altro canto la maggior parte di questi, come abbiamo già citato il Botswana, il Ghana è sempre stato stabile, non a caso Barack Obama la prima presenza in Africa non l'ha fatta nel suo paese di origine, ma l'ha fatta in Ghana. Per cui sono paesi che hanno delle economie stabili, anche perché, e dobbiamo ricordarlo, molte delle guerre civili erano delle guerre di spartizione legate al blocco, alla guerra fredda, alla guerra fredda. Cioè, erano guerre che noi importavamo, noi diciamo blocco occidentale e blocco comunista, e importavamo in Africa, usavamo l'Africa come si usava l'Italia ai tempi della Francia e della Spagna, ma non certo nate al loro interno, nate da, a parte se vogliamo, il Ruanda e altri diciamo, luoghi dell'Africa più nera, ma insomma non nate da contrasti interni. Esattamente, e quindi quando finisce una guerra come quella, che era di spartizione diciamo internazionale, non rimane un conflitto tribale e religioso, e quindi la generazione successiva alla guerra in realtà crea una stabilità. Certo. Tra l'altro sono governi che spesso e volentieri, anche legati al Commonwealth, hanno un mercato molto libero e hanno anche delle democrazie stabili proprio per un eccesso, se vogliamo, di liberismo, nel senso che in molti paesi abbiamo il presidente o il ministro o anche dei funzionari che possono avere quote in società, ma devono essere rese pubbliche e trasparenti. In questa maniera si sta superando anche quella corruzione di basso livello che è il vero problema di molti paesi, e quindi si fa un passo avanti. Certo. In questo devo dire chi sta investendo oggi nelle risorse umane, faccio un esempio, noi abbiamo 30 persone che sono tutte formate o in Italia o formate da italiani, chi sta investendo oggi nelle risorse umane si troverà domani con un futuro partner, con un collaboratore o con un socio affidabile. In questo l'India è andato molto avanti, ha superato anche quel blocco culturale tipico degli indiani di rimanere nelle loro famiglie e di non confondersi tra virgolette con la popolazione locale, e hanno scelto l'India come centro di formazione per poi riesportare i cervelli di cui parlavo in apertura. Sì, ecco. Purtroppo su questo l'Europa è molto indietro. Sì, Simone Santi, poi passiamo nell'ultima parte invece all'Africa come mercato anche di sbocco per le nostre imprese, però volevo capire una cosa, visto il vantaggio anche pieno di retorica che sfrutta la Cina, siamo come voi, siamo stati anche noi colonizzati, non siamo colonizzatori, non ci interessa quello che capita nei vostri fatti interni, veniamo lì solo per lavorare. Da questo punto di vista, che è quasi un tratto più culturale, che però diventa poi un tratto economico, perché quando devi firmare gli accordi anche questo pesa, soprattutto in certi paesi, in certe culture. Noi come italiani come siamo messi? Ah, noi come italiani siamo messi che dobbiamo superare la barriera ideologica che oramai gli africani si sono fatti contro l'Unione Europea. L'Unione Europea significa per gli africani burocrazia e significa imposizione. Non solo per gli africani. Esatto. E quindi loro lo sanno molto bene. Quindi ecco, gli italiani devono in questo avere un po' un passo avanti. Devo fare dei complimenti al nostro governo, al governo che ha per la prima volta fatto un incontro Italia-Africa e che ha seguito, se vogliamo, un bilaterale che era quello della Cina. Se non dimentichiamo che la Cina è stato l'unico paese che ha invitato tutti i leader africani. E quindi in questo siamo andati avanti. Le nostre imprese devono essere un po' più pragmatiche, se vogliamo. Devo dire che chi opera all'estero, gli espatriati che noi continuamente assistiamo o incontriamo, in realtà lo sono già, perché poi spesso rimangono nei paesi di riferimento. L'italiano in questo ha meno difficoltà culturali anche a unirsi con la popolazione locale, sia nel fare il business che anche a radicarsi, per cui le nostre piccole e medie imprese in questo momento hanno uno spazio importante. Il nostro sistema paese potrebbe muoversi un po' in maniera un po' più strutturata, però devo dire che rispetto ad altri europei stiamo recuperando con il bilaterale. Consideriamo che noi non siamo ex coloni, se non veramente per piccole esperienze. È chiaro, ci muoviamo in un'economia globalizzata in cui, ripetiamo, i cinesi sono pragmatici. Se gli mettono delle regole, le rispettano. Se non gli mettono delle regole, vanno avanti dove il mercato, che nelle regole del mercato chiede, e ovviamente sfruttano al massimo. Però non dobbiamo dimenticarci che l'imprenditore deve ottimizzare i costi e deve ottimizzare il profitto. In questo dobbiamo dare anche il tempo alle economie di svilupparsi, e devo dire che tante volte ci sono delle economie africane che insegnerebbero democrazia anche ai paesi europei. Allora, dopo le informazioni sul traffico, l'ultima parte di questa puntata, vedo anche l'interesse di molti ascoltatori, una volta tanto non parliamo solo di casa nostra o della borsa, ma di futuro e in maniera molto concreta, ripeto, fuori dai luoghi comuni, attenzione, 53 paesi non possono essere ricondotti sotto il semplice termine Africa, sarebbe come parlare di America intendendo Canada e Honduras allo stesso modo. Focus Economia. Ultima parte di questa puntata speciale di Focus Economia, ripeto, mercato chiuso e quindi temi di approfondimento, come sempre facciamo da anni, l'opportunità delle Afriche, siamo arrivati all'Africa come mercato interno, non solo come, tra virgolette, passami il termine sfruttamento o comunque come grande continente ricco di risorse minerarie e risorse naturali agricole. I cinesi non si sono solo preoccupati di ottenere diritti di pesca, diritti di sfruttamento minerario, diritti di qualunque genere, comprando milioni di ettari africani in cambio di finanziamenti bancari, di costruzioni di infrastrutture. Beh, insomma, Pechino è interessata all'Africa anche perché vede nell'Africa un mercato di sbocco. Di nuovo il libro di Stefano Gardelli, L'Africa cinese, un altro passaggio. Nei primi mesi del 2009, a seguito della crisi economica globale, la produzione economica cinese ha subito un sensibile rallentamento della sua costante corsa. La ragione è ovvia. La Cina è diventata la fabbrica del mondo. E quando il resto del mondo, Occidente in testa, si trova in fase recessiva, calano i consumi e di conseguenza la produzione industriale cinese. La seconda ragione che spinge la Cina verso l'Africa è perciò la potenzialità rappresentata dall'apertura di nuovi mercati per assorbire la sovrapproduzione del sistema economico cinese. Quindi, mentre l'Europa e gli Stati Uniti sono in fase recessiva e nel pieno di una crisi i cui effetti a medio e lungo termine rimangono incerti, l'Africa, un continente in forte crescita economica e demografica, è un potenziale nuovo mercato ideale per i prodotti cinesi a basso costo. Inoltre, gli obiettivi di Pechino sono orientati all'apertura di nuove opportunità di investimento per le multinazionali cinesi, in particolare a tutta una serie di opportunità di investimento tradizionalmente off-limits per le compagnie private occidentali, che, al contrario delle multinazionali cinesi a partecipazione statale, hanno dei vincoli di bilancio. La terza ragione che muove l'interesse del governo di Pechino in Africa è la ricerca di fonti diplomatiche affidabili. L'importanza strategica dell'Africa sta nel suo vantaggio numerico, quale più grande singolo raggruppamento di stati, e nella loro tendenza a votare in blocco in contesti multilaterali, quali l'ONU e le sue agenzie. I voti africani si sono rivelati essenziali per Pechino in svariate occasioni. Per esempio, sono stati decisivi nel bloccare l'adesione di Taiwan all'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, e nel bocciare la proposta di condanna della Cina per violazione dei diritti umani presso la Commissione dell'ONU per i diritti umani. Inoltre, il peso politico dei paesi africani è stato determinante nell'assegnazione delle Olimpiadi del 2008 a Pechino e dell'Expo 2010 a Shanghai. In futuro è lecito attendersi che la maggioranza del blocco dei voti africani continui a sostenere la Cina in molte delle sue imprese politiche ed economiche. In ogni caso, è bene ricordare che qualunque siano i motivi che spingono la Cina nel suo safari africano, una corsa alle risorse energetiche, la ricerca di supporto politico o la prima tappa per imporsi come superpotenza globale, poche di queste ragioni sono delle novità per l'Africa. Tutti i partner commerciali giungono con un'agenda e con obiettivi ben precisi da soddisfare, e la Cina è come tutti gli altri partner. Quindi è compito dei governi africani trovare un modo di negoziare alla pari per ottenere condizioni e risultati più vantaggiosi. Allora, stavo giusto per dire, poi il passaggio del libro di Stefano Gardelli ha introdotto il tema, ucci sento odore di sfruttamento, di neocolonialismo. Non voglio essere retorico, però Stefano Gardelli, nel momento, quando si era alle elementari, alle medie, ti spiegavano che il colonialismo dell'Ottocento funzionava in questo modo: prendevi il cotone dai campi dell'Africa o insomma altre materie prime, lo trasformavi in Inghilterra, e poi l'Inghilterra in India, questo vale per l'India, per l'Africa, lo rimandava in India o in Africa sotto forma di vestiti che gli abitanti del luogo erano costretti a comprarsi. Questo era il meccanismo classico dello sfruttamento coloniale: tu ci dai la materia prima, noi la lavoriamo e ti obblighiamo anche a comprarla. Beh, nel momento in cui la Cina compra milioni di ettari in Africa per produrre, per avere anche materie prime, produce prodotti a basso costo e poi li vuole collocare ai cittadini africani, non mi sembra un meccanismo così diverso, o sbaglio? Sì, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, lungi da me. Diciamo, io lo voglio guardare da un punto di vista positivo, e il punto di vista positivo è che questo allarga le possibilità e i portafogli dei consumatori africani di potersi permettere tutta una serie di beni, in questo caso appunto adesso a basso costo, che prima non si potevano permettere perché venivano dall'Europa. Quindi diciamo che ha, come tutte, sui lati positivi e sui lati negativi, però l'equazione che tu stavi prima raccontando benissimo, questa esiste, cioè non c'è nulla da dire su questo, è così, è ancora così, e purtroppo non ci sono delle grosse prospettive perché questo cambi. C'è da dire che poi noi europei siamo svantaggiati in questo momento per il discorso dell'export in Africa, per un euro, per il valore dell'euro che non ci fa essere competitivi. Quindi noi possiamo essere competitivi soltanto con le merci, i beni, i consumi ad alto valore aggiunto, per cui con tutto, con la tecnologia, con i trasferimenti di tecnologia. Però è chiaro che i cinesi in questo momento la fanno da padroni, anche perché le loro linee produttive, ciò che loro riescono a, i loro contatti che riescono a consolidare, rimangono fedeli, hanno una fidelizzazione dei loro clienti molto molto alta, più di quello che noi possiamo aspettarci. Quello che ci salva è che in tanti paesi, soprattutto in West Africa, la maggior parte dell'economia, soprattutto grandi trader, sono libanesi, e quindi hanno un rapporto storico con francesi, con italiani, e quindi quando viene il cinese o l'indiano, sembra brutto ma è così, chiaramente gli danno una credibilità molto inferiore rispetto a quello che è ancora l'europeo nell'immaginario comune. Quindi questo diciamo che è un fattore che ancora ci salva. Però posso dire una cosa su quello che è la Cina, cioè l'approccio cinese porta con sé anche un'altra cosa, cioè l'insegnamento politico che la Cina può dare all'Africa è quello di portare fuori dalla povertà, come ha fatto la Cina, 400 milioni di persone, ed è stata un'impresa, credo che verrà ricordata nei libri di storia per i prossimi 300 anni. Indubbiamente. Quindi questo è basato però su degli elementi che sono, per esempio, evitare le shock therapies, quelle del liberalismo sfrenato, diciamo così, proprio banalizzando, che in alcuni paesi, per esempio, dell'Est Europa ha avuto delle ripercussioni negative. Quindi un approccio, quello che è chiamato try and see approach, cioè riforma passo per passo, vedendo gli effetti, come ha fatto la Cina aprendo alle industrie straniere sulla costa, no? Prima in costa, sì, abbiamo visto che va bene e poi andiamo nell'interno. Sì, no, il passo dopo passo è possibile in Cina, devo solo precisare questo, Gardelli, perché l'economia non è dirigista, è un'economia, diciamo, non democratica. Allora è chiaro che tu, quando hai i piani quinquennali, che devo dire in Cina hanno avuto anche dei grandissimi effetti benefici, però sono possibili perché in altri paesi, tu citavi l'Est Europa, lì si è preferita la strada democratica, e allora è poi un po' più difficile imporre a 20 milioni di persone di spostarsi da una parte all'altra del paese, a 15 milioni di persone di muoversi. Cioè, i piani con quella decennia sono una cosa impressionante. Comunque ho capito benissimo, tu dici il modello che loro portano è anche di, senza democrazia, senza diritti politici e anche spesso civili nelle persone, però siamo riusciti a portare 400 milioni di persone fuori dalla fame dei campi cinesi, ne vogliamo portare altri 400 milioni nei prossimi anni fuori dalla fame, quindi fidatevi di noi. Simone Santi, c'è un mercato in Africa per ora? Perché la sentivo un po' scettico prima. Ma no, il mercato c'è, io porto qualche dato. Se oggi CMC, Società di Costruzione di Ravenna, negli ultimi anni ha quintuplicato il fatturato che ha, tra l'altro in paesi dove la Cina è molto presente e cresce molto, significa che c'è spazio. Oggi c'è spazio, devo dire che anche i paesi africani si stanno difendendo e richiedono qualità anche alle produzioni cinesi e ai cinesi stessi, poi l'Angola di meno, il Mozambico, l'Etiopia di più, cioè alcuni paesi più o meno adesso stanno richiedendo la qualità e stanno anche chiudendo i contratti che non vengono rispettati. E quindi si lascia del mercato al libero mercato. Noi abbiamo dello spazio sicuramente sui punti d'eccellenza, i macchinari agricoli, Fiat New Holland esporta molto in Africa, il gruppo Nardi, una Coma che è l'associazione, cioè, ci riconoscono in Africa un marchio di qualità sui prodotti, sui macchinari agricoli, ci riconoscono un marchio di qualità sul food, quindi sui prodotti alimentari. Sempre di più prodotti di gusto e prodotti di alta gamma, i materiali di costruzione, dagli infissi ai marmi, perché la classe, come diceva anche Gardelli, la classe ricca sta crescendo moltissimo e richiede prodotti di qualità, non vuole più la casa costruita con prodotti cinesi, ma vuole il marmo di Carrara e vuole gli infissi italiani. E quindi c'è anche grande spazio su questo, c'è spazio sui laboratori, sulla meccanica di precisione, sui prodotti farmaceutici, non in ultimo c'è spazio per il lusso e per la moda. Oggi Città del Capo, Johannesburg, Luanda o Maputo sono delle città che dove tu vedi lusso e moda e rimani sorpreso se non conosci. E l'indicazione è che purtroppo spesso gli imprenditori italiani hanno nel commercio il difetto di credere che arrivano nei paesi e vendono in maniera spot. In Africa, nella maggior parte dei paesi, il rapporto umano e continuativo è un fattore fondamentale. Per cui costruire relazioni, non solo andare a piazzare merce, questo è un discorso che abbiamo già fatto altre volte, mi ricordo puntate un paio di anni fa quando ci occupavamo di Cina, anche lì, attenzione, è inutile pensare al mercato cinese come un mercato in cui tu vai, piazzi prodotti e poi saluti, devi iniziare a costruire relazioni. Io comunque vorrei ringraziare, augurando a questo punto anche buon Natale, Simone Santi, appunto responsabile in Confindustria per quello che riguarda i giovani imprenditori, la piccola industria di Confindustria e dei rapporti con l'Africa. Grazie dottor Santi. Grazie Barisoni, grazie mille. E grazie anche a Stefano Gardelli, autore del libro L'Africa cinese, gli interessi asiatici nel continente nero. Grazie mille a voi. Da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, io spero, a giudicare dagli sms direi di sì, insomma, che questa puntata un po' particolare, su temi però molto molto economici e anche, mettiamoli così, sociali, per essere un po' alti, sia piaciuta. Noi ci risentiremo dopo le festività natalizie. Un ringraziamento come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione, un augurio di buon vigilia e buon Natale a tutti voi in ascolto.